Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Febbraio 1898. A Parigi, in un magazzino umido e male attrezzato della Scuola Municipale di Chimica e Fisica, una giovane studentessa piena di curiosità e ambizione sta compiendo un esperimento insieme a suo marito. Mette nella camera di ionizzazione un composto pesante e nero come la pece contenente uranio, la Patch Blenda della Boemia. Il suo potere di rendere l'aria conduttrice di elettricità si rivela essere addirittura superiore a quello dell'uranio puro, inducendo i due scienziati a controllare gli strumenti. Ci deve essere un errore. Ma l'errore non c'è, gli strumenti funzionano alla perfezione. Questo li porta a pensare che esista un altro minerale dentro al composto, sconosciuto e più potente dell'uranio. Ma quale? E come fare per portarlo alla luce? I due coniugi si guardano, comprendono immediatamente che inizia per loro una lunga e faticosa fase di studio alla ricerca dell'elemento misterioso. Qualcosa di eccitante come non è mai capitato prima di allora. Alcuni giorni dopo, la giovane donna scrive a sua sorella. Sai, Bronia, la radiazione che non potevo spiegarmi viene da un elemento chimico ignoto. L'elemento è lì, non c'è che da scoprirlo. Ne siamo sicuri. Alcuni fisici della Sorbona, a cui abbiamo parlato della cosa, ritengono si tratti di un errore e ci consigliano d'essere prudenti. Ma io sono persuasa di non ingannarmi. Questa giovane studentessa è molto decisa. Di fronte a quelli che devono essere di sicuro dei professoroni, studiosi della Sorbona, scienziati di grande attendibilità, che le suggeriscono una certa cautela, lei replica di essere persuasa che non si sta ingannando. Lei che ha solo 31 anni, non è ancora laureata ed è pure una donna. Ma la sua sicurezza le deriva da un fatto fondamentale. I suoi esperimenti li sta conducendo insieme a suo marito, del quale ha piena fiducia non solo come uomo, ma ancor più come scienziato. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi la loro storia, dove amore coniugale e passione per la scienza si fondono in un amalgama talmente ben riuscito da risultare indistinguibili. Quasi un unico destino che cambia per sempre la storia del mondo e dell'umanità. I nomi dei due scienziati sono Maria Sklodowska e Pierre Curie. Maria Sklodowska e Pierre Curie. La vicenda dei coniugi Curie affonda le sue origini in un luogo molto lontano da quel magazzino umido di Rue Lomond, dove due cervelli e quattro mani cercano il minerale ignoto. Essa ha origine nella lontana e oppressa Polonia. I polacchi amano follemente i diminutivi. Da sempre in casa Sklodowski si dice Zosia invece di Sofia, Bronia invece di Bronislava. Elena è diventata Hela e Giuseppe Gioso. Ma nessuno ha ricevuto tanti soprannomi come Maria, l'ultima nata, la viziata di casa. Mania è il diminutivo ricorrente. Maniusia, un appellativo tenero. Arsiupesio, un soprannome comico che data da quando è in culla. I genitori di Maria Sklodowska sono gente dotta. Il padre insegna matematica e fisica. La madre ha diretto fino a poco dopo la nascita di Maria un pensionato, dove vengono a istruirsi le ragazze delle migliori famiglie di Varsavia. Ma ora lo ha ceduto perché ha 5 bambini a cui badare. Maria è una bravissima studentessa, come peraltro sono tutti i ragazzi Sklodowski, ma tutti soffrono terribilmente per l'oppressione che il loro paese subisce dalla grande madre Russia. Spesso la loro scuola è visitata da un ispettore, il signor Hornberg, che interroga gli allievi umiliandoli. Quali sono gli zar che hanno regnato dopo Caterina II sulla nostra santa Russia? Dimmi i nomi e i titoli dei membri della famiglia imperiale. Qual è il titolo dello zar nella scala dei dignitari? Chi ci governa? Chi governerà voi tutti polacchi? Tocca sempre a lei, alla povera Maria Sklodowska, essere interrogata da quell'individuo abietto. È la più brava della scuola e le insegnanti mandano sempre avanti lei per non fare brutta figura e non subire le punizioni dell'ispettore. Maria è emozionata. Sente su di sé il peso della responsabilità. Sa che sta a lei sviare le attenzioni negative dell'ispettore dalla sua scuola per poter continuare indisturbate ad apprendere dalle insegnanti la storia e la lingua del proprio paese. Quella Polonia così umiliata e messa in ginocchio dall'oppressore che da circa un secolo le ha tolto l'indipendenza. Mutilation, control, oppression, to divide and to conquer is your goal. Oppression, I swear that hatred is your home. Oppression, you just won't leave bad enough alone. but oppression. I won't let you near me. Oh no, oppression. Sofferente per la mancanza di libertà che si respira nel suo paese, la Polonia, Maria Sklodowska deve vivere altre infelicità. La sua amatissima mamma e la sorella maggiore Zosia muoiono entrambe di malattia, lasciando il professor Sklodowski in uno stato di depressione sconsolata, dalla quale deve però riaversi subito perché ha 4 figli a cui badare. Tra l'altro, non tramolto andrà in pensione e non potrà provvedere a tutto. Bisogna che i suoi figli si guadagnino da vivere. Maria è molto in gamba, ha un diploma preso con il massimo dei voti e trova facilmente lavoro come istitutrice in una casa di ricchi polacchi. Ma la sera, dopo aver insegnato ai suoi allievi, spesso svogliati e disordinati, la giovane medita sul suo futuro. Lei, malgrado le leggi inaudite del suo paese, che vietano alle donne di andare all'università, sta pensando proprio a quello. Decisi che sarei andata a Parigi, alla Sorbona. Per questo mi preparavo non appena avevo tempo. La letteratura mi interessava quanto la sociologia e le scienze. Tuttavia, durante quegli anni di lavoro, cercando di scoprire a poco le mie vere preferenze, mi rivolsi finalmente alle matematiche e alla fisica. I miei studi solitari erano irti di difficoltà. L'istruzione scientifica che avevo ricevuto al liceo era molto incompleta, molto inferiore ai programmi in Francia. Cercai di completarla a mio modo, servendomi di libri radunati a caso. Acquistai così l'abitudine al lavoro indipendente che doveva essermi molto utile più tardi. La sorella Bronia si è sposata e vive a Parigi. Maria le ha confidato i suoi desideri più reconditi e la sorella le ha offerto ospitalità. Ora Maria sente che forse il suo sogno può avverarsi. Non riesce più a dormire, una trepidazione interna, un'esaltazione diversa da tutte quelle che ha conosciuto la trattengono sul margine del sonno. Ma se le sue notti sono febbrili, i suoi giorni scorrono in apparenza tranquilli. Maria nasconde a chi le si avvicina l'impazienza insensata che si è impadronita di lei. Vuole che suo padre stia tranquillo. Sa che lui non ha affatto voglia che la sua figlioletta più piccola parta all'avventura per il vasto mondo, ma non può attendere oltre. Sono 8 anni che ha terminato il liceo. Sai che svolge la professione di istitutrice e non è più l'adolescente che vedeva dinanzi a sé tutta la vita. Tra qualche settimana avrà 24 anni. È con questo spirito che scrive ancora alla sorella. Ora, Bronia, ti chiedo una risposta definitiva. Decidi se veramente puoi prendermi con te, perché io posso venire. Ho di che pagarmi le mie spese. Visto che aspetti un bambino, potrei forse rendermi utile in casa vostra. Se soltanto la mia venuta è una cosa possibile, dimmelo e dimmi che esami d'ammissione devo affrontare e entro che data, al più tardi, ci si può iscrivere come studenti. La prospettiva della partenza mi rende talmente nervosa che non posso scriverti altro. Non importa dove mi alloggerete, non ingombrerò. Prometto che non creerò nessuna noia, nessun disordine. Ti imploro di rispondermi francamente. Bronia vorrebbe mandare alla sorella un telegramma, ma costa troppo. Quindi le risponde con una semplice lettera, affidando ad essa tutto il suo amore e dichiarandole con calde parole quanto stia attendendola con impazienza. I preparativi divengono febbrili. Maria ha atteso troppo questo momento e nessun indugio è più accettabile. E così, nell'ottobre del 1891, Maria parte. Nella notte forata da sibili e rumori di ferraglia, il vagone di quarta classe che la coglie duramente attraversa la Germania. Maria è accoccolata sul suo sgabello, con le gambe avvolte dalle coperte. Stringe i pochi involti che ha con sé, ricontandoli di tanto in tanto per sicurezza. Nel frattempo assapora la sua gioia, pensa al passato, a questa partenza tanto attesa. Tenta di immaginare il suo avvenire. Si vede di ritorno fra alcuni anni nel suo paese, probabilmente diverrà una professoressa. Quello di cui è certa è che salendo su quel vagone freddo e scomodo ha scelto tra oscurità e luce, tra la meschinità dei suoi giorni tutti uguali e l'immensità della sua nuova vita. Come racconta lo scrittore e regista britannico Ken Campbell, autore di una serie di documentari sui 6 esperimenti che hanno cambiato il mondo, tra i quali include quello dei coniugi Curie, non appena Maria arriva a Parigi, avverte immediatamente un prezioso senso di libertà. Maria arrivò in Francia quando Parigi era la città dell'innovazione. Era straniera e donna in un mondo di uomini. Si iscrisse alla Sorbona, dove a malapena le donne si contavano sulle dita di una mano, ma era libera. Come ci si sente giovani a Parigi, come ci si sente potenti, trepidanti, pieni di speranza. È la prima volta che Maria respira l'aria di un paese libero e l'aria di un'università. Vive per un periodo dalla sorella Bronia, ma poi si trova una cameretta più vicina alla Sorbona perché ha bisogno di solitudine per studiare. Non ha soldi, non può concedersi alcun lusso, poco cibo e mai abiti nuovi. Si nutre di libri e si veste di cultura. Il suo cervello è talmente preciso, la sua intelligenza così meravigliosamente chiara. È sostenuta da una volontà di ferro, da una predilezione maniacale per la perfezione, da un'ostinazione incredibile. E così, passo dopo passo, raggiunge tutti gli scopi che si è prefissata. Ottiene il primo posto alla licenza di scienze fisiche e il secondo alla licenza di scienze matematiche. Questi successi le valgono un importante incarico. La Società per l'incoraggiamento dell'industria nazionale le commissiona uno studio sulle proprietà magnetiche dei diversi acciai. Maria ne sta parlando preoccupata al professor Kowalski, un fisico polacco della cui moglie Maria è amica da anni. I due si trovano di passaggio a Parigi. Ho paura che dovrò rinunciare all'incarico. Dovrei analizzare dei minerali, raggruppare dei campioni di metalli. Ciò richiede un'installazione ingombrante, non saprei dove preparare i miei esperimenti. Ma Giuseppe Kowalski ha un'idea. Conosce uno scienziato di grande valore che lavora alla scuola di fisica e di chimica in via Lomon. Magari lui ha un locale disponibile. Così invita Maria a passare alla pensione dove alloggiano l'indomani sera. Dirà quel giovanotto di venire anche lui. La ragazza è elettrizzata. Conoscere un vero scienziato, questo sì che è un bel colpo. E se il professor Kowalski dice che costui è di grande valore, c'è proprio da crederci. Nobody said it was easy. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Maria Sklodowska, studentessa polacca iscritta alla Sorbona di Parigi, deve fare i conti con una società prettamente maschilista, specialmente nel campo delle scienze di cui lei si occupa. Dopo aver preso la licenza in scienze fisiche e in scienze matematiche, con il massimo dei voti, la ragazza riceve un importante incarico. Deve effettuare uno studio sulle proprietà magnetiche dei metalli. Ma non avendo un luogo dove realizzare questi esperimenti, chiede aiuto a un amico di famiglia, il fisico polacco Giuseppe Kowalski, di passaggio a Parigi con la moglie. Kowalski conosce un giovane scienziato che forse può aiutare Maria e combina un incontro fra i due. Maria ricorda anni dopo quel momento decisivo per la sua vita. Quando entrai nel salottino dei Kowalski, lui stava nel vano d'una porta finestra che dava su un balcone. Mi parve giovanissimo, benché avesse all'epoca 35 anni. Fui colpita dall'espressione del suo sguardo chiaro, da un'apparenza d'abbandono nella sua alta statura. La sua parola opulenta e riflessiva, la sua semplicità, il suo sorriso a un tempo grave e giovane, ispiravano fiducia. Il giovane che si trova di fronte a Maria Sklodowska in questo momento ha un fascino particolare, fatto di gravità e di un'abbandonata dolcezza. È alto, i suoi vestiti sono di taglio ampio, per nulla alla moda, e ondeggiano intorno alla sua figura conferendogli un'eleganza che gli è innata. Le sue mani sono lunghe, sensibili, il viso è incorniciato da una barba ruvida, decisamente bello, soprattutto per gli occhi, tranquilli, dallo sguardo sereno, distaccato da tutto. Kowalski presenta a Maria il giovanotto. Il suo nome è Pierre Curie. Benché mantenga una costante riservatezza, è impossibile non notare la sua espressione di intelligenza e di rara distinzione. Da tutta la sua persona traspare nobiltà e forza. Maria Sklodowska è senza parole. L'uomo che le sta di fronte la colpisce talmente in profondità che forse ha bisogno di essere lasciata un po' tranquilla con i suoi pensieri. Assecondiamo questa sua necessità d'animo e chiediamoci intanto, chi è questo Pierre Curie? Figli di un medico francese di origine alsaziana, Eugène Curie, Pierre e suo fratello Giacomo sono entrambi attratti fin da bambini dalle scienze. Terminano gli studi con largo anticipo sui coetanei e annunciano ben presto una scoperta importante, il fenomeno della piezoelettricità. Gli studi teorici sulla fisica cristallina conducono Pierre a enunciare il principio di simmetria, che diverrà una delle basi della scienza moderna. Riprendendo i suoi studi sperimentali, inventa e costruisce una bilancia ultrasensibile, conosciuta in tutto il mondo con il nome di bilancia Curie, e intraprende importanti ricerche sul magnetismo, che lo portano alla scoperta di una legge fondamentale della fisica detta dal suo nome legge Curie. Ma non è solo questo, Pierre, è molto ancora. Un poeta e uno scrittore originale e sensibile. Stordir coi campanelli lo spirito che vuole pensare, perché debole come sono, non lasci la mia testa abbandonarsi a tutti i venti, cedendo al più lieve soffio che incontra. Bisognerebbe che tutto fosse immobile intorno a me o che, lanciata la mia testa come una trottola che ronza, il movimento stesso la rendesse insensibile agli impulsi esterni. E quest'uomo, scienziato insieme poeta, riservato ma passionale, di una bellezza intelligente e viva, che si trova di fronte Maria Sklodowska nel salottino dei coniugi Kowalski. E se di lei sappiamo già quello che prova nel vederlo, per conoscere i sentimenti di lui ci rivolgiamo al ricordo della nipote, Hélène Langevin-Joliot. Sono certa che al massimo 2 o 3 giorni dopo il loro primo incontro, nonno Pierre era fermamente convinto di volerla sposare. E questo nonostante il fatto che quando era giovane aveva scritto che le donne di genio sono rare, ma ne aveva trovata una. Non si può definire un misogino, Pierre, questo no. Eppure l'affermazione della nipote è vera. Egli affida a un diario questo suo pensiero, forse un po' troppo forte per essere espresso a voce alta. La donna, assai più di noi uomini, ama la vita per vivere. Le donne di genio sono rare, così che quando sospinti da un mistico amore diamo tutto il nostro pensiero ad una qualsiasi opera che ci allontana dall'umanità, dobbiamo lottare con le donne. La madre vuole prima d'ogni cosa l'amore del suo figliolo, dovesse questo restare anche idiota. Anche l'amante vuole possedere l'uomo amato e vorrebbe che il più bel genio del mondo si sacrificasse per un'ora d'amore. La lotta è quasi sempre ineguale, giacché le donne hanno per sé la buona causa. Se cercano di trattenerci, lo fanno in nome della vita e della natura. Ma di fronte a Maria Sklodowska, davanti alla sua pacata bellezza, alla sua giovinezza delicata e all'intelligenza che traspare dal suo volto, il poeta insieme allo scienziato rimangono soggiogati. È un'alchimia speciale quella che si sta creando fra i due. Ognuno sa dell'altro quel tanto che basta a far crescere il desiderio di conoscerlo meglio. E benché Maria abbia cancellato dal programma della propria vita l'amore e il matrimonio, quell'uomo pare uscire dai suoi schemi precostituiti. E Pierre è rimasto anch'egli immobile, come Maria, incapace di pensare, per una volta tanto, con la testa davvero trasformata in una trottola come anelava nei suoi versi. È divertente vederli formare un bel quadretto, sul quale i coniugi Kowalski, ben più esperti dei due giovani scienziati, fatto di cuore, possono facilmente ipotizzare un pronostico tinto di rosa. Destini incrociati. Destini incrociati è oggi alle prese con una storia molto particolare, quella che vede per protagonisti Maria e Pierre Curie. I due giovani scienziati si conoscono nel 1894 tramite un amico comune e da quel momento le loro vite si intrecciano in un legame fatto di amore e collaborazione professionale perfetto, come raramente ci viene raccontato dalla storia. Né l'una né l'altro hanno alcuna intenzione di farsi una famiglia. Nei loro piani amore e matrimonio non compaiono, ma non hanno fatto i conti con la vita che li mette l'una di fronte all'altro per far loro compiere una scelta definitiva. Pierre Curie si convince subito che quella piccola ragazza polacca è la donna per lui. Maria ha più reticenze. Esita per circa un anno perché teme di dover scegliere fra la famiglia e la carriera. Ma con un uomo come Pierre non dovrà farlo. È una fredda sera d'inverno. Una giovane sposa sta sistemando la sua casa parigina. Ha appena fatto il bagnetto alla piccola figlioletta Irene, che ora dorme tranquilla. Mette una pentola sul fuoco e scrive il bilancio della sua vita in un taccuino di appunti. 2 licenze di fisica e matematica, il concorso di ammissione all'insegnamento, uno studio sulla magnetizzazione degli acciai temprati, un marito meraviglioso e una figlioletta adorabile. La donna si è appena rimessa dal parto ed è già al lavoro. Maria Curie sta pensando come sua abitudine alla tappa successiva, il dottorato. Deve solo trovare il tema giusto per la tesi, una materia feconda, originale. Come uno scrittore esita e interroga se stesso prima di trovare l'argomento del prossimo romanzo, Maria sta passando in rassegna con suo marito Pierre i più recenti lavori di fisica. Non vuole qualcosa di già visto. Porta in sé dall'infanzia la curiosità e l'audacia degli esploratori. È per questo che si interessa ai lavori del fisico francese Henri Becquerel sull'uranio. E poi c'è la recente scoperta dei raggi X fatta da Röntgen. I coniugi si domandano da dove possa provenire l'energia che sprigionano i composti d'uranio sotto forma di radiazioni e di che natura siano queste radiazioni. La prima cosa da fare è misurare il potere di ionizzazione dei raggi d'uranio, la loro capacità di rendere l'aria conduttrice di elettricità e di scaricare un elettroscopio. L'apparecchiatura è ottima, Pierre. L'avete costruita tu e tuo fratello. Maria si sta servendo di un elettrometro Curie. La patch blender della Boemia dimostra un potere radioattivo addirittura superiore a quello dell'uranio puro. Esamina tutti gli elementi chimici conosciuti e si convince giorno dopo giorno che all'interno di quel composto si trovi qualche altra cosa, un nuovo elemento. Maria, ritta davanti agli apparecchi di controllo, occhi negli occhi con il marito Pierre, non assapora il trionfo della scoperta in un colpo solo. L'ebbrezza si distribuisce lungo vari giorni di lavoro decisivo, resi febbrili da una magnifica speranza. Grazie al potere della propria intuizione, gli scienziati dimostrano a se stessi che la sostanza sconosciuta deve esistere. Ma bisogna metterla in luce, bisogna forzare il suo incognito, verificare l'ipotesi dell'esperienza, isolare la materia, vederla e annunciare finalmente «essa c'è, l'ho vista». In una comunicazione del 12 aprile 1898 all'Accademia della Sorbona, Maria Sklodowska-Curie fa un annuncio rivoluzionario. Mio marito Pierre Curie e io medesima stiamo conducendo una serie di esperimenti che ci portano a ritenere probabile la presenza nei minerali di Pechblenda d'un corpo nuovo dotato di potente radioattività. Due minerali di uranio, la Pechblenda, ossido d'uranio, e la calcolite, fosfato di rame e di uranite, sono molto più attivi dello stesso uranio. Pierre e Maria cercano la sostanza misteriosa. Le loro scritture si alternano e si mischiano sui taccuini di lavoro. Dicono sempre «noi abbiamo visto» oppure «noi abbiamo osservato», in una comunione di intenti e di vita coniugale. Pazientemente impiegano un metodo di ricerca chimica di loro invenzione. Separano tutti i corpi di cui si compone la patch blend e misurano di ciascuno la radioattività. Per eliminazioni successive vedono la radioattività anomala rifugiarsi in alcune porzioni di minerale. Più il loro lavoro progredisce, più il campo d'azione si restringe. Come due poliziotti che indagano per scoprire il malfattore e arrestarlo, Pierre e Maria non mollano. Ma qui non vi è un malfattore solo. Gli scienziati scoprono che in realtà vi sono due elementi sconosciuti. In luglio i coniugi sono in grado di annunciare la scoperta del primo di essi. Pierre Curie si rivolge alla giovane moglie raggiante. Bisogna che tu le trovi un nome, Maria. Quella che è stata la signorina Sklodowska riflette un momento in silenzio. Poi il suo cuore si slancia verso la patria cancellata dalle cartine geografiche del mondo dagli oppressori e risponde convinta: lo chiameremo Polonio. I coniugi Maria e Pierre Curie trovano due sostanze misteriose, estremamente radioattive e mai classificate tra gli elementi esistenti. Alla prima, che essi evidenziano verso la metà del 1898, viene dato il nome di Polonio, in onore della patria di Maria Sklodowska. Quella povera Polonia, umiliata e oppressa dai paesi invasori Russia, Austria e Germania, che se ne sono spartiti i territori. Solo alcuni mesi più tardi, in dicembre, i coniugi Curie scrivono nuovamente all'Accademia delle Scienze. Diversi studi ci spingono a credere che le sostanze radioattive da noi analizzate racchiudono un altro elemento nuovo. La sua radioattività è enorme. Noi proponiamo di chiamarlo radio. Radio, dal latino radium, cioè raggio. È un nome semplice ma efficace, quello che Pierre e Maria scelgono per questa loro seconda creatura. Le caratteristiche del polonio e del radio scombussolano le teorie fondamentali alle quali gli scienziati credono da secoli. Come spiegare l'irradiazione spontanea dei corpi radioattivi? La scoperta dei coniugi Curie dà uno scossone a tutto il mondo di nozioni acquisite e si contrappone alle idee più saldamente stabilite sulla composizione della materia. Per questo i fisici di tutto il mondo si dimostrano quantomeno scettici. Non parliamo poi dei chimici. Per definizione, un chimico non crede all'esistenza di un elemento nuovo fin quando non lo ha visto, toccato, confrontato per mezzo di acidi, messo in un flacone e soprattutto fin quando non ne ha determinato il peso atomico. Una mattina, un pesante carro a cavallo simile a quelli che portano il carbone a domicilio si ferma in via Lomont davanti alla scuola di fisica. Pierre e Maria si precipitano fuori. Curie, che non si agita mai, mantiene la sua calma, ma sua moglie non riesce a contenere la gioia e la sua patch blenda. La scienziata taglia la corda che chiude uno dei sacchi e immerge le mani nel minerale bruno e opaco. È lì che si nascondono il radio e il polonio, ed è da lì che Maria li estrarrà. Dovesse lavorare tutta la vita quella montagna di materia inerte che somiglia alla polvere delle strade. Non avevamo denaro, era come creare qualcosa dal niente. Se i miei anni da studentessa furono definiti anni eroici, posso senz'altro dire che quel periodo fu per mio marito e me l'epoca eroica della nostra vita in comune. Tuttavia, è in quell'orribile vecchia rimessa, fredda d'inverno e calda d'estate, che trascorsero gli anni migliori e più felici della nostra vita. Io passavo il giorno intero ad agitare una massa in ebollizione con un'asta di ferro grande quasi quanto me. Alla sera ero rotta dalla fatica. In queste condizioni, il signore e la signora Curie lavorano dal 1898 al 1902. Si tratta di una ricerca estremamente dura, come ricorda la biografa di Maria Curie, Susan Quinn. Lavoravano per ore e ore, al freddo, senza alcun tipo di precauzione, perché non si pensava fossero materiali pericolosi. Deve essere stato molto difficile, ma anche appagante. Marie e Pierre sono instancabili e, benché non ottengano alcun risultato visibile, non demordono. Ma c'è una sera speciale che il mondo tutto ricorderà per sempre. Quella sera i coniugi Curie hanno messo a letto la piccola Irene. Sono stanchi, hanno lavorato fino alle 7 passate, oltre 12 ore di fila. Ma una strana inquietudine prende Maria. Guarda e riguarda suo marito, infine è lui a dirle: «Avverti mio padre che usciamo, che guardi lui la piccola». Si avviano mano nella mano verso il loro laboratorio, quel luogo che da 4 lunghi anni li vede giorno dopo giorno a fianco, a faticare come fossero due facchini, e quando varcano la soglia è Maria a fermare la mano del marito per impedirgli di accendere la luce. Non accendere? Guarda, guarda, il radio è spontaneamente luminoso! Nella rimessa buia, sagome fosforescenti, azzurrastre, brillano come sospese nell'oscurità. Sono briciole preziose, pallidi splendori, misteriose sorgenti di raggi. È il loro radio, finalmente tangibile, finalmente alla luce, la luce di se stesso. La mano di Pierre Curie accarezza i capelli di sua moglie, che col corpo inclinato e la testa avida guarda quella meraviglia con lo stesso atteggiamento amorevole con cui fa addormentare la figlia. E Maria ricorderà per sempre quello spettacolo incredibile di lucciole notturne, quella festa inaspettata della radioattività. Destini incrociati. Una scoperta incredibile. Basti pensare che sono servite 50 tonnellate di acqua, 6 tonnellate di sostanze chimiche, una tonnellata di patch blend per ricavare solo 6 grammi di radio, ma sufficienti per cambiare il mondo. Dalle comunità scientifiche più esclusive, alla gente semplice del popolo, attraverso i giornali e le pubblicazioni, tutti parlano delle strabilianti scoperte di Pierre e Maria Curie. Considerato uno dei raggiungimenti scientifici più importanti nella nostra storia, destinato a cambiare le sorti dell'intera umanità, soprattutto in relazione al suo impiego nella cura del cancro, la scoperta del radio e del polonio cambia radicalmente anche la vita dei coniugi Curie. Tutti li vogliono, tutti li cercano e soprattutto vogliono poter utilizzare i due nuovi elementi. I Curie potrebbero arricchirsi enormemente grazie al brevetto della loro scoperta, ma con una mossa inaspettata decidono di lasciarla libera. Sarebbe contrario allo spirito scientifico, dicono quasi con ingenuità. Rinunciano alla ricchezza e anche se Maria si è ormai laureata e può insegnare, i Curie non sono certo benestanti. L'anno dopo la pubblicazione dei loro risultati, nel 1903, avviene però un fatto inaspettato. Maria e Pierre vengono insigniti del più alto riconoscimento scientifico, il Nobel per la fisica. La lettera dalla Svezia arriva il 14 novembre del 1903. Signore e signora Curie, l'Accademia Svedese di Scienze, nella sessione del 12 novembre, ha preso la decisione di attribuir loro la metà del premio Nobel per la fisica insieme ad Antoine-Henri Becquerel per i vostri lavori sulla radioattività e sul radio e polonio, In nome dell'Accademia, vi invito a ricevere il premio di persona il 10 dicembre prossimo. A chi pensi che il Nobel rappresenti un raggiungimento per i Curie, bisogna ricordare di che persone stiamo parlando. Schive, solitarie, insofferenti alla mondanità, prese dai propri esperimenti e poco avvezze a ricevimenti e abiti da sera. Maria e Pierre sono quasi sgomenti di fronte a quello che sta loro capitando. Richieste di conferenze stampa, inviti in ogni parte del mondo, persone di qualunque genere ed estrazione che li attendono sotto casa o al laboratorio, anche solo per vederli in volto, per sbirciare con la curiosità tipica del popolo in quel laboratorio dei misteri. Marito e moglie inventano scuse, non vanno nemmeno a ritirare il Nobel. Maria, che è anche incinta della seconda figlia, si lamenta con il fratello Giuseppe in una lettera datata 14 febbraio 1904. Sempre il rumore, la gente ci impedisce di lavorare. Ora mi sono decisa a non ricevere più visite di sorta, ma ci disturbano ugualmente. La nostra vita è completamente sciupata dagli onori e dalla gloria. La nascita della secondogenita Eve, le cattedre universitarie, una certa tranquillità economica data dall'ingresso dei 70.000 franchi del premio Nobel, sono fatti che concorrono a mettere un po' di pace nella vita di Maria e Pierre Curie. Passato il primo momento di euforia dei media, dovuto alla vasta eco che la scoperta del polonio e del radio hanno sull'opinione pubblica, i coniugi possono finalmente concentrarsi di nuovo sui loro esperimenti. Ma qualcosa di terribile arriva a sconvolgere di nuovo la loro esistenza. Quel giovedì si preannuncia spiacevole. Piove, l'aria è scura e non sembra neanche primavera. Pierre deve andare a un pranzo dell'associazione dei professori della facoltà di scienze. Non ne ha voglia, ha molte altre cose da fare e quando esce dall'associazione è distratto. Attraversa malamente la via Delfinà, nei pressi del Lungo Senna. È intasata la vecchia via del centro di Parigi, carrozze da tutte le parti, impossibile muoversi. Pierre si avventura in una mossa azzardata tra due carrozze che procedono in senso inverso. Un cavallo si imbizzarrisce. Lui cade a terra sotto gli zoccoli dei grandi destrieri normanni. Miracolosamente ne esce indenne. Non è ferito. Qualcuno grida ferma. Il cocchiere tira le redini, ma è troppo tardi. L'enorme massa della carrozza, trascinata dal suo stesso peso di 6 tonnellate, fa ancora qualche metro. La ruota posteriore sinistra incontra un debole ostacolo. È il corpo di Pierre Curie. Pierre, mio Pierre. Tu sei lì, calmo, come un povero ferito che si riposa, dormendo col capo bendato. Ti ha posato tra le mani il mio ritratto. Dico lei che ha avuto la gioia di piacerti abbastanza da spingerti a dividere la tua vita con lei. Noi eravamo fatti per vivere insieme. Maria Curie ha perduto il proprio compagno e il mondo ha perduto un grand'uomo. I giornali di tutto il mondo descrivono il patetico incidente della via Delfinà e messaggi di cordoglio di sovrani, ministri, poeti e scienziati si ammucchiano mischiati a quelli di nomi oscuri. A Maria resta un compito pesante: allevare due figlie piccole da sola, occupare con onore il suo posto di professore, continuare le ricerche intraprese con suo marito e sviluppare la nuova scienza della radioattività. Ma questa grande donna fa molto di più. Durante la Prima Guerra Mondiale crea un reparto di unità mobili di radiografia come mezzo di diagnosi per i soldati feriti. Fonda due istituti di ricerca intitolati alla memoria del marito, uno a Parigi e l'altro a Varsavia. E nel 1911 riceve un secondo premio Nobel, questa volta per la chimica. Unica donna fra i quattro vincitori di più di un Nobel e unica con il chimico e pacifista Linus Pauling ad averli vinti in due aree distinte. Maria Curie muore nel 1934 per una grave forma di anemia aplastica, dovuta alla prolungata esposizione alle radiazioni, di cui all'epoca si ignorava la pericolosità. L'anno dopo, la figlia maggiore, Irene, viene insignita a sua volta del premio Nobel per la chimica, mentre la secondogenita, Eve, è consigliere speciale dell'ONU e ambasciatrice dell'UNICEF. Eredi entrambe di due grandi vite, quelle dei coniugi Curie, spese al servizio della scienza e dell'umanità. Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina.